Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 19 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta di oggi è gnocchi alla piemontese. Ingredienti per 4 persone: patate gialle 1 kg, farina 150 g, burro 70 g, 6 cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 spicchio d'aglio, sale quanto basta. Preparazione: mettete le patate intere con la buccia in acqua salata e portate ad ebollizione. Fatele cuocere per circa 30 minuti. Poi scolatele, pelatele e passatele con lo schiacciapatate. Mettete la purea sulla spianatoia e impastatela con la farina e il sale. Lavorate energicamente il composto finché sarà sufficientemente elastico. Ricavate dall'impasto dei cilindri grossi un dito. Tagliateli a pezzetti per ottenere piccoli gnocchi. Sistemate sulla spianatoia infarinata e mettete nell'acqua salata che sta bollendo. Intanto sciogliete il burro con l'aglio. Quando gli gnocchi vengono a galla, toglieteli un po' per volta e metteteli nei piatti individuali. Togliete l'aglio dal burro e condite gli gnocchi con il burro sciolto e il parmigiano. Buon appetito! Vini consigliati: Pinot Bianco Fontana Fredda del Piemonte a 10 gradi, Pomino Bianco della Toscana servito a 10 gradi. Questa era la ricetta numero 19 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e questa è Radio Big World. Alla prossima ricetta insieme.